Andiamo avanti, come detto prima, ora proviamo a parlare con Alessia degli Orrez che ci spiegherà un po' il progetto appunto della squadra femminile che è nato quest'anno a settembre, squadra di rugby a 15. Comunque bene, anche benino WhatsApp. Pronto? Ciao Alessia, ci senti? Sì. Salutiamo Buongiorno Alessia. A tutti, compagni. Va bene, niente, come detto abbiamo parlato prima con la compagna di Zona Orientale che ci ha spiegato un po' del progetto dell'attività in carcere nell'ICAT di Eboli che portano avanti, e ci interessava come assemblea che proponevamo oggi anche parlare di un altro grande traguardo, insomma, che è stato raggiunto dalla rete rugby popolare, nello specifico dagli Orrez di Roma, e di avere la squadra di rugby a 15 femminile che sta disputando il campionato. Quindi se hai voglia di parlarci un po' di questo progetto e di come sta andando avanti. Sì, diciamo che finalmente dopo tanti anni la squadra femminile degli Orrez nasce nel lontano 2007 con una formula che è quella famosa che un po' tutte le squadre femminili di rugby hanno sicuramente sperimentato e che ancora purtroppo alcune si trovano a sperimentare, che è il rugby a 7, e in un periodo particolare della storia del rugby femminile, e approda finalmente, diciamo, negli ultimi 3-4 anni, 5 anni considerando forse il Covid, ha comunque partecipato con questa formula e questa forma, diciamo, che la federazione consente al campionato a 15 con una formula di tutoraggio, quindi essendo iscritta al campionato di rugby a 7 e potendo schierare invece appunto con delle società che si potevano permettere di fare il 15 le proprie atlete. Ma finalmente quest'anno siamo riusciti a coronare questo sogno che era quello appunto di fare un campionato di Serie A sotto il nome degli Orrez. È stata una situazione molto bella, veramente un sogno che da tanto tempo volevamo coronare. Ovviamente non l'abbiamo potuto fare da sole, ne l'abbiamo fatto insieme a un'altra società con la quale l'anno prima avevamo fatto sempre il campionato a 15, però con la formula al contrario, quindi sotto, diciamo, sotto il loro nome, e che si chiama Monte Virginio, e che sta a una 60 di chilometri, diciamo, da Roma. E è stata una bellissima esperienza, molto faticosa, perché comunque 3 allenamenti a settimana, di cui 2 congiunti, quindi uno da noi e uno da loro, non sono facili, non sono facili per nessuno, non sono facili soprattutto per le squadre femminili che contano molti meno numeri e che, come tutti sappiamo, insomma, hanno grandi difficoltà aggregative. E l'abbiamo fatto in un girone che prevedeva 3 squadre del Lazio, che eravamo noi, il Frascati e la Capitolina, e 2 squadre che erano invece fuori regione, quindi una in Campania, quindi Torre del Greco, e una addirittura in Puglia a Bisceglie. È stata sicuramente una bellissima esperienza, un'esperienza che vorremmo riproporre l'anno prossimo, non con poche difficoltà, questo purtroppo lo sappiamo. Probabilmente ricorreremo nuovamente a una sorta di franchigia o comunque all'aggregazione di più società, però insomma ormai per questo lungo e importante viaggio l'abbiamo intrapreso, quindi non vogliamo abbandonarlo, insomma, ci piacerebbe riproporlo anche l'anno scorso, anche perché sicuramente una qualità di allenamenti con alto numero di atlete in campo ha fatto anche restare le tante atlete che si sono avvicinate per la prima volta o che sono tornate a giocare a rugby dopo periodi di stop, e quindi adesso, diciamo, di base nostra noi abbiamo 12-15 atlete che si allenano solo Reds, diciamo, che si allenano con costanza e che si sono allenate fino a fine campionato. Sono dei numeri risibili per fare un campionato a 15, però diciamo rispetto poi alla pochezza purtroppo delle atlete, pochezza numerica ovviamente, alla scarsità numerica di atlete donne che praticano questo sport, sono comunque un numero importante che ci fa sperare, insomma, di poter riavviare da qui a un paio d'anni autonomamente il progetto. Sicuramente il Covid non ha aiutato nessuno, ci sono stati un sacco di di mancanze ed è stato tutto faticoso, quindi siamo doppiamente contenti di aver portato avanti il progetto in autonomia per tutto l'anno. E la squadra si è allenata, come dicevo prima, sia da noi al cinodromo due volte a settimana in un allenamento atletico e tecnico il martedì e in un allenamento congiunto il giovedì con l'allenatore delle ragazze del Monte Virginio, e poi si riallenavano tutte quante insieme da noi il venerdì prima della partita. E quest'anno abbiamo dedicato, penso che sappiate che anche gli orari del prima dicevate all'interno diciamo del cronoprogramma degli argomenti che volevate affrontare, che vogliamo affrontare in questa assemblea, c'è anche quella dell'autoformazione interna. Come sapete, gli Reds hanno un gruppo tecnico che segue tutte le categorie, quest'anno per la categoria della femminile, proprio perché volevamo diciamo dare un grande supporto alle ragazze, e abbiamo dedicato 4 tecnici e un supervisor. Siamo tutti tecnici ovviamente con l'abilitazione federale, ma come sapete anche formati all'interno dal nostro gruppo tecnico, che si compone di 3 allenatori insomma di lunga data, tra cui anche una psicologa dello sport. Grazie. Potrei continuare per ore, quindi non mi interrompo se avete cose da chiedere o se Stefano, che è presente là, ha delle cose da aggiungere o da correggere, perché solitamente sbaglio numeri e date. Faccio una domanda io, Giuseppe della Stella Rossa. Ciao. Noi siamo partiti quest'anno con una parte con la squadra che si è ingrandita soprattutto per quanto riguarda la femminile. Le ragazze adesso penso che siano grosso modo 12-13 ragazze che si allenano. 16, dicono 16, mentendo. Presidente, non dare numeri falsi. Il presidente dà sempre i numeri, e poi come sono questi numeri è diverso. No, ti volevo chiedere quale consiglio daresti tu a un gruppo di persone che oggi si ritrovano in 12 persone che però vogliono giocare a 15 il prima possibile, cioè quali sono gli step che secondo te deve affrontare? Guarda, noi ci siamo avvicinati piano piano così, cioè facendoci tutorare da altre società. Ovviamente in questo momento non so chiaro le società che ci sono vicino da voi e se soprattutto c'è la possibilità di essere affiancati in una situazione che non sia poi comunque cioè che sia propositiva per le ragazze, no? Che faccia vivere a loro un'esperienza positiva, perché faccio l'esempio, non è sicuramente costruttivo per le ragazze andare a giocare in una società che ha grandissimi numeri, in cui le possibilità poi di sperimentarsi, di mettersi in gioco, in discussione sono minime, no? Però purtroppo credo che, così come noi torneremo a fare una franchigia il prossimo anno, sono veramente poche le squadre che si possono permettere autonomamente di fare una società. Le stesse 2 società che c'erano a Roma con noi sono frutto di altre società, addirittura Frascati ha messo insieme lo Spoleto, Macerata, cioè veramente fuori regione a tantissimi chilometri di distanza da Roma. E se c'è la possibilità di fare appunto una franchigia, sicuramente è un'opportunità da non perdere, anche perché senza un obiettivo solo con gli allenamenti è meno stimolante, no, per le ragazze. E secondo me poi l'ambizione deve essere assolutamente quella di puntare a fare il prima possibile un'esperienza a 15, sia come gruppo autonomo ma anche insomma sperimentandosi all'inizio con altre società, se non è possibile fare diversamente. La Coppa Italia è veramente una situazione frustrante per tutte. Noi per esempio nel Lazio quest'anno non ce l'avevamo, siamo andati a fare da supporto all'US Roma, che era un'altra società che con noi ha fatto il campionato quest'anno con le atlete più piccole, diciamo le 17 e le 18, e siamo andati a giocare due volte a Napoli. Quindi purtroppo i numeri non hanno subito questo incremento che prima o poi speravamo tutti avesse anche il rugby femminile. Il compromesso con altre società è indispensabile. L'unico suggerimento, ma che mi sembra abbastanza scontato, è quello di non mollare, perché la nostra esperienza quest'anno ci ha detto che avere dei numeri buoni e degli allenamenti costruttivi in campo fa restare le atlete che si avvicinano, insomma. Buoni numeri portano buone proposte, e quindi fidelizzi le ragazze, e poi piano piano, un percorso lungo, molto più lungo ovviamente di quello per delle squadre maschili, anche perché se potremmo aprire delle parentesi lunghissime, se c'è una cosa a cui rinunciano per prime le donne è proprio il diritto allo sport, che arriva per ultimo dopo tutti gli altri necessità, ecco, quindi è molto complicato avere dei numeri consistenti. Noi siamo arrivati a fatica a fine campionato quest'anno, siamo arrivati a giocare le ultime due partite della Coppa Conference, che è la seconda parte del campionato, per chi non si qualificava tra le prime due squadre del girone, tra la prima e la seconda meritocratica più brava, e siamo arrivate veramente contate a finire il campionato in 15-16 a partecipare alle partite, ecco. Ho capito, grazie mille. Quindi diciamo, proponi il cercare di fare franchigie quanto più possibile, che è quello che cerchiamo di fare anche noi come Stella Rossa, cioè di stabilire delle sinergie con altre squadre e poi prendere con noi tutte le risorse degli altri. È tutto molto complicato piano. Anche nelle franchigie, nel senso che poi ognuno ha il suo modo di allenare, ognuno ha la sua il suo modo di gestire le squadre femminili, che è diverso dalla gestione delle squadre maschili, quindi insomma qualche compromesso va sempre fatto. Però secondo me, io l'ho sperato per tanto di giocare a 15, e come ho reso non l'ho mai potuto fare perché sono vecchia, e quindi sono arrivata quando le ragazze sono arrivate, diciamo, quando gli Orrezzi sono arrivati a fare una squadra da soli e sotto il nome degli Orrezzi, ero già decrepita per poter giocare, e quindi ho potuto però essere fiera di allenare le ragazze quest'anno. Però credo che non sia un percorso assolutamente insomma, non voglio dire denigratorio, adesso mi viene solo questo termine così, insomma, però o svilente rispetto al progetto, ecco. Invece secondo me anche giocare sotto altre forme con altre società dà la possibilità alle ragazze di continuarsi a sperimentare e di non perderti, soprattutto perché se non c'hai un obiettivo vai alla lunga molli. Va bene, poi hai toccato anche un altro punto sulla formazione, però lo terrei in sospeso per un attimo perché lo andiamo a sviscerare tra un pochino. C'è una domanda, c'è l'integrazione da parte dell'altro romano presente. Immaginavo. No, più che altro perché a parte mi sono prefissato di fare un intervento su ogni punto dell'assemblea. Giustamente. E di coprire temporalmente con i miei interventi lo stesso tempo che ho passato sul Flixbus, lo sposta poveri che mi ha condotto qui. Quindi sono state circa 9 ore, quindi mettiti comodo, amico. E, no, in realtà aggiungo veramente pochissimo, perché a parte non ho mania di protagonismo di parlare io della femminile quando c'è Alessia che insomma è stata capitano per 1000 anni e poi allenatrice, quindi insomma sembra che ci devo mettere io la pisciatina sopra. Aggiungo solo due cose velocissime. Una è quello che ha detto anche Alessia sull'opportunità di fare accordi di tutoraggio, franchigia con altre società, e chiaramente io conosco poco la realtà WISP, però per quanto riguarda la federazione, su questo con tutti i limiti che ha la federazione rugby, devo dire sta stimolando possibilità e opportunità di accordi tra le società, e anche facendo in modo che ognuna poi mantenga la propria identità. E quello che diceva Alessia è assolutamente vero, nel senso che la Stella Rossa, così come è accaduto a noi, chiaramente è una società con una mi scoccio a dirlo perché c'ho un amico davanti, però comunque con un'identità, una riconoscibilità, una personalità forte, e quindi assolutamente ci possiamo approcciare a questo tipo di rapporti senza alcun timore che siano poi penalizzanti per noi, perché immagino che tutte le ragazze che la Stella Rossa può magari andranno a fare un progetto, non so, col CUS Milano, poi non appena avranno l'opportunità l'opportunità, torneranno sotto il grande abbraccio della famiglia Stella Rossa. C'è da riconoscere che Sicuramente penso che stiate lavorando già benissimo, quindi forse non avete neanche troppo bisogno di consigli, perché il progetto è partito da pochissimo e già avete i numeri che abbiamo visto, quindi 14, 16, 18 a seconda della fila dell'assemblea che si esprimeva, però comunque già 14 ragazze sono assolutamente tantissime. E basti pensare che in tutta Roma le ragazze under 17, under 15 che fanno rugby sono circa 25 in tutta Roma, quindi, cioè che fanno attività rugbistica, quindi questo dimostra anche la difficoltà di farlo in bacini magari meno vocati al rugby. Qua fortunatamente avete anche l'opportunità di scegliere ovviamente tra situazioni diverse, quella che magari è più vicina anche alla vostra idea. E quindi non aggiungo altro se non questo, diciamo. Probabilmente è anche poi sarà anche un percorso più gestibile dal punto di vista logistico, perché ad esempio il fatto che fino a quest'anno c'era un solo campionato di Serie A, dall'anno prossimo ci saranno due, quindi sarà uno split nella femminile, così come accade nella maschile, quindi ci sarà una sorta di top 10 della femminile e una Serie A, però comunque quando scendi sotto Bologna le distanze si diventano incredibili, cioè noi quest'anno nel girone avevamo Bisceglie, Torre del Greco, l'anno prossimo avremo anche una squadra siciliana probabilmente, quindi vuol dire che per fare tre partite fai come minimo 3.000 km, quindi qua sicuramente c'è questo ulteriore stimolo. E l'ultima cosa è il campo che comunque diventa un punto aggregante fondamentale. Voi avete la fortuna che anziché essere in una landa desolata in cui per arrivarci devi superare insomma tre livelli di Street Fighter come è il cinodromo, qua state comunque in mezzo a un quartiere, quindi c'è comunque un richiamo, si dà un passo dalla metro ovviamente collegatissimo, e quindi anche questo può essere uno stimolo per allargare. Poi immagino che ci saranno altri progetti magari anche legati ai più piccoli, e questo vale anche per tutto quello, quindi sicuramente queste sono le considerazioni che noi possiamo portare, e l'augurio che vi possiamo fare è quello di magari ritrovarci una Coppa Conference tra tre anni con Reds Stella Rossa. Va bene, se non ci sono altre domande. Celio, ok, giusto? No, io non parlo più allora. Dov'è Beppe? Mi potete tenere lontano Beppe? No, Beppe, va. Allora.